Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. In Libia sono stati liberati gli altri due ostaggi italiani. Siamo devastati, dicono, abbiamo bisogno di tornare. Si indaga intanto sulla morte degli altri due, ancora non confermato ufficialmente, tra l'altro. Intanto prende corpo l'ipotesi di un intervento nel paese, prende sempre più corpo. Cautela del governo che non vuole fughe in avanti, ma è già polemica sull'impiego delle forze speciali nel paese. Scandalo Petrobas, fermato l'ex presidente brasiliano Lula dopo una perquisizione nella sua casa. Ieri un senatore aveva fatto il suo nome e quello dell'attuale presidente, Dilma Rousseff. Mutui e pignoramenti verso l'estensione del limite a 18 mesi per chi perde il lavoro. Ci sono già una serie di garanzie, dalla moratoria al fondo di solidarietà. Amministrativa, il Partito Democratico alla prova delle primarie di Roma e Napoli. Sulla capitale, tra l'altro, è ancora caos nel centrodestra. Il calcio, questa sera una sfida in chiave Champions, si affrontano la Roma e la Fiorentina. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, come sempre, sono il 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, ed effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere una mail. Iniziamo dalla Libia. Sono Gino Policato e sono qui con il mio collega Filippo Caetano. E siamo in un posto sicuro, in un posto di polizia qui in Libia, e stiamo bene e speriamo di tornare urgentemente in Italia perché abbiamo bisogno di ritrovare la nostra famiglia. Dice che ci stanno trattando bene. Ci stanno trattando bene, dicono, tra l'altro. Dunque, la notizia di questa mattina è la liberazione degli altri due ostaggi in Libia. Vediamo di fare un punto con la nostra Anna Marino. Anna, eccoci. Sì, buongiorno a te, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. È arrivata anche la conferma ufficiale della Farnesina: i due italiani rapiti in Libia a luglio, Gino Policardo, 55 anni, ligure, di Monterosso dove ora suonano le campane a festa, e Filippo Calcagno, 65enne di Enna, i due tecnici dell'azienda Bonatti, non sono più nelle mani dei loro rapitori, si trovano ora sotto la tutela del Consiglio Militare di Sabrata e sono in buona salute. Il video che abbiamo ascoltato e sentito era stato preceduto da un messaggio sulla stampa online su Corriere.it, insieme a una foto di Policardo e Calcagno, che appunto annunciavano la loro liberazione e dicevano che stavano discretamente, fisicamente ma psicologicamente devastati. Abbiamo bisogno, scrivevano su un foglietto, di tornare urgentemente in Italia. Entrambe hanno parlato al telefono con i familiari, la notizia è stata poi annunciata dal Consiglio Militare di Sabrata, ma non c'è ancora certezza sulla dinamica dei fatti. Secondo alcune fonti si sarebbero addirittura liberati da soli dall'ISIS. Al-Zawadi, in una dichiarazione alla Associated Press, ha riferito che i miliziani locali sono poi venuti in loro aiuto su segnalazione di vicini. L'area è stata teatro di duri scontri, dice appunto questa fonte, e tra i combattenti dell'ISIS e le forze locali di Sabrata. E poi inoltre hanno detto che sono in buone condizioni, anche se non avevano mangiato in una settimana. E secondo altre fonti sono in mano alla polizia, e questo secondo il vicepresidente del COPASIR Giuseppe Esposito, e il loro rientro, dice, potrebbe essere imminente. Sentiamo. Sono ancora in mano della polizia libica, non sono ancora, diciamo, presso nostri apparati. Che cosa si prevede per il loro rientro? Penso che dalle notizie, però sono molto cauto su questo, dalle notizie entro un'oretta e mezza sapremo anche se arrivano in giornata o domani mattina in Italia. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, stanno chiedendo un intervento in Libia, è possibile un intervento anche di militari? Ma noi abbiamo detto che se ci sta l'accordo fra i due governi e c'è l'accordo libico, da questo punto di vista l'intervento può essere su richiesta dei libici stessi. Un intervento contro i libici noi non ce lo possiamo permettere. Infatti l'uccisione, anche se non ancora confermata, come dicevi, ufficialmente ieri a Sabrata, sembra in scontri tra jihadisti e ISIS, degli altri due tecnici italiani, Fausto Piano, 60 anni del Cagliaritano, e Salvatore Failla, 47 anni del Siracusano, apre la strada a ipotesi di un impegno militare italiano nel paese, verso il quale sembrano spingere anche gli Stati Uniti, per voce dell'ambasciatore in Italia Phillips, secondo il quale appunto l'Italia potrebbe prendere la guida di un'azione internazionale a sostegno del governo libico e schierare fino a 5.000 uomini. E per ora è tutto, Simone. E grazie Anna Marino per questi aggiornamenti. Tra un attimo torneremo tanto sul tema della ricostruzione di quello che può essere successo per la liberazione di questi due ostaggi e l'uccisione degli altri due, quanto sulla questione militare. Intanto facciamo un punto sulle reazioni politiche con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, eccoci. Sì, buongiorno. Reazioni politiche che si dividono tra il sollievo per la liberazione dei nostri due connazionali e le polemiche per la notizia ieri della morte degli altri due italiani e il ruolo che il nostro paese si avvia ad avere nella crisi libica. Contatti continui allora da Palazzo Chigi con la Farnesina. Il presidente del Consiglio Renzi starebbe seguendo passo dopo passo l'evolversi della situazione. Non trova conferma invece per il momento la notizia di un colloquio telefonico del Premier con i familiari di Calcagno e Pollicardo. Massima attenzione alla vicenda anche da parte del Quirinale. C'è sollievo dopo le terribili notizie di ieri, commenta intanto la presidente della Camera Boldrini, che però aggiunge: in Libia al momento non ci sono i presupposti per un intervento dei nostri militari. A un intervento militare di terra ero contrario quando facevo il ministro degli interni e sono contrario adesso, dice dalla Lega Maroni. Non ha senso, spero che non venga fatto. Non si tratta di un nuovo sbarco in Normandia, replica però dal PD La Torre. Noi continuiamo a insistere e lavorare affinché i libici al più presto possibile formino un governo di unità nazionale. Da Forza Italia Romani commenta: gioia per la liberazione degli ostaggi, ma è necessario che vengano chiariti ai due rami del Parlamento tutti gli aspetti delle ultime 24 ore. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e per provare a fare un punto su tutto questo torniamo a collegarci con Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore, così come abbiamo fatto ieri. Gerardo, di nuovo buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, mi sembra che anche oggi le voci che arrivano dalla Libia siano estremamente confuse, perché da una parte c'è qualcuno che racconta da Sabrata che i due si sarebbero liberati da soli, dall'altra parte resta in piedi l'ipotesi che tutto sia avvenuto in un blitz nel quale due degli ostaggi sarebbero rimasti uccisi e due invece sarebbero stati liberati. Sì, è chiaro, le notizie sono sempre molto confuse, vanno tutte verificate, come già ieri, anche oggi questa pagina Facebook di questo gruppo libico Al-Ajat 2 ha praticamente pubblicato, che era quello che aveva pubblicato le fotografie dei corpi di Fausto Piano e Salvatore Failla, ha anche riferito di questa liberazione a seguito di un efferato blitz in un covo di Daesh. Non ci sono conferme del blitz, non c'è neanche conferma di una trattativa e di un pagamento di un riscatto, che è stato smentito in maniera abbastanza ferma dal presidente del COPASIR Stucchi. Quindi diciamo, si tratta come sempre di notizie tutte quante da verificare, e questo è dovuto al fatto che le fonti italiane sono sempre fonti spesso indirette. Non c'è più, come sappiamo, da oltre un anno un'ambasciata, una rappresentanza diplomatica e consolare in Libia. L'ambasciata italiana è stata l'ultima a chiudere appunto fa, e quindi è molto difficile avere verifica dell'esatta dinamica. Ma sembra che entro un'ora le cose siano più chiare, nel senso che i due rapiti dovrebbero essere consegnati in mano italiane, e quindi avremo forse direttamente dalla loro voce la ricostruzione delle ultime ore di prigionia. Ti ringrazio, grazie a Gerardo Pelosi anche per quest'ultima informazione preziosa. Quindi evidentemente nelle prossime ore rimanete sintonizzati, ovviamente con Radio 24 vi aggiorneremo anche su questo. Torneremo su tutto questo, ci collegheremo tra l'altro con Domenico Quirico, giornalista della Stampa, che si trova proprio a Sabrata, nel luogo dove sono stati liberati, che è stato il primo questa mattina a dare la notizia, e poi parleremo con l'avvocato di una delle famiglie delle due persone che invece hanno perso la vita. Intanto ci occupiamo delle altre notizie, iniziando dal Brasile. Che cosa è successo in Brasile? Che questa mattina c'è stata una perquisizione nell'ambito dello scandalo Petrobras, uno scandalo di corruzione che sta colpendo i vertici brasiliani, una perquisizione nella casa dell'ex presidente Lula, e Lula appunto sarebbe stato fermato. Abbiamo in studio con noi Roberto Darin del Sole 24 Ore. Roberto, buongiorno, e che cosa sappiamo? Buongiorno, è accaduto questa indagine che era partita già alcuni mesi fa, oggi ha portato al fermo dell'ex presidente brasiliano Lula. Ricordiamo, Lula è rimasto al potere per due mandati consecutivi. La ragione per cui è stato fermato pare sia stato il ritrovamento di alcuni documenti in casa sua che riguardano tangenti che il Partito dei Lavoratori avrebbe, cui lui è sempre stato leader, avrebbe ricevuto dal colosso energetico Petrobras. Si tratta di uno scandalo di grosse dimensioni che ha squassato l'intero establishment. e potrebbe coinvolgere anche l'attuale presidente Dilma Rousseff, no? Potrebbe coinvolgere anche l'attuale presidente Dilma Rousseff. Vediamo come procede l'indagine. È una questione naturalmente molto delicata, perché è evidente che ci sia anche il timore di una politicizzazione di un'indagine di questo genere, soprattutto ora in vista di un evento così importante. Ci sono le Olimpiadi a Rio de Janeiro dal 1 agosto prossimo, quindi è un tema di capitale importanza. Anche l'ulteriore aggravante è che il Brasile vive un periodo di recessione economica molto grave, e gli ultimi dati danno una flessione del PIL nel 2015 superiore al 3%, la peggiore degli ultimi 25 anni. Ti ringrazio, grazie a Roberto Darin del Sole 24 Ore per questo aggiornamento. Ritorniamo alle vicende italiane. C'è un fronte al centro delle discussioni politiche di queste ore ed è quello dei mutui, ossia il recepimento di una direttiva europea che riguarda i pignoramenti per chi non abbia pagato un certo numero di rate. Vediamo di fare il punto. La casa potrà essere venduta e pignorata dalla banca dopo 18 rate non pagate, non 7, e solo per i mutui nuovi. Il consumatore sarà assistito da un esperto di fiducia e il perito verrà nominato dal tribunale, proprio per evitare possibili casi di svendita da parte dell'istituto di credito che, se incasserà di più, dovrà restituire l'eccedenza. Sono queste le maggiori modifiche al tanto contestato decreto mutui, che permetterà alla banca di vendere direttamente la casa senza passare dall'asta giudiziaria. Una procedura che può durare anche 7 anni. A dire la verità, l'azione della banca dopo 7 rate non pagate, contemplata già dal 93, e le regole attuali in Italia prevedono comunque aiuti per le famiglie inadempienti. Da 3 anni esiste infatti il fondo di solidarietà, a cui si affianca la moratoria. Il primo permette a chi ha perso definitivamente il lavoro di sospendere tutta la rata fino a 18 mesi. La nuova moratoria limita invece il periodo a 12 mesi, ma allarga la platea dei beneficiari. Si può accedere in caso di perdita del posto di lavoro, morto o infortunio grave, o anche se a causa della crisi l'orario di lavoro è stato sospeso o ridotto per almeno 30 giorni consecutivi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica ci porta anche a parlare delle primarie, perché questo è il fine settimana di Roma e Napoli. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, nel centrodestra Guido Bertolaso non si ritira da candidato e alle 16 parteciperà anche alla convention qui a Roma, l'Ergife, alla quale partecipa anche Silvio Berlusconi. Il candidato scelto dal centrodestra un mese fa continua però ad essere contestato da Matteo Salvini della Lega, che preferirebbe Giorgia Meloni. Nel centro-sinistra invece primaria a Roma e Napoli, domenica con lo spettro della partecipazione dei verdiniani e i malumori della minoranza. Il Partito Democratico apre al voto agli immigrati per domenica, ad annunciarlo il presidente del partito Matteo Orfini, che parla di crescita culturale e civile nella comunità romana. A Roma gli sfidanti sono 6, ma la battaglia vera è tra 2, il candidato renziano Roberto Giachetti e quello della sinistra Dem Roberto Morassut. E primarie ci saranno anche a Napoli per il Partito Democratico, dove parteciperà l'ex sindaco e presidente della regione Antonio Bassolini. Intanto Manuela Repetti conferma che i verdiniani non parteciperanno alle primarie del centro-sinistra. A te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito. A questo è dedicata l'analisi di Daniele Biacchessi. Le primarie del PD che si tengono domenica a Roma e Napoli non possono essere considerate un fatto politico locale. Come è accaduto a Milano con la vittoria di Giuseppe Sala, sono test nazionali. Non avranno conseguenze sul governo, ma certamente potrebbero condizionare gli equilibri interni e il peso politico del vertice del partito di maggioranza. A Roma si contendono il Campidoglio Roberto Giachetti, radicale e renziano, e Roberto Morassut, nella sinistra Dem. La partita si gioca tra questi due nomi, gli altri sono praticamente fuori gioco. Si tratta di due profili di candidati diversi e rappresentativi di due mondi politici oggi distanti tra loro. Non solo. Questa differenza appare ancora più grande se si pensa alle primarie di Roma come test politico nazionale. Denis Verdini, che ha salvato il premier Matteo Renzi sulle unioni civili, oggi dice di sostenere Giachetti. Anche a Napoli si gioca un match nazionale. Una possibile vittoria di Antonio Bassolino contro candidati oggettivamente più deboli, ma sostenuti dall'establishment del PD, potrebbe mettere in seria discussione l'attuale segreteria renziana. Tutto accade mentre a Milano il mancato accordo tra Giuseppe Sala e Francesca Balzani può favorire i civici, che stanno invece mettendo in campo un asso da 90, l'ex PM di Mani Pulite, Gerardo Colombo. Passiamo a parlare dell'iniziativa del Sole 24 Ore insieme a Confindustria ed Ernst & Young. Si tratta del viaggio nell'Italia che innova, che fa tappa a Bari. C'è là per noi Fabrizia Ralla. Buongiorno Fabrizia, raccontaci cosa succede. Buongiorno, sì, è sbarcato a Bari per una giornata il viaggio nell'Italia che innova, questa iniziativa organizzata dal Sole 24 Ore in collaborazione con Confindustria Ernst & Young. Non è un convegno, non è un evento formale fine a se stesso, come ha precisato il direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, ma si propone di essere un grande gruppo di lavoro che ha messo insieme tantissimi imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e tutti gli attori dello sviluppo economico che si sono confrontati sulle sfide legate all'innovazione. Innovazione che vuol dire sviluppo attraverso l'elaborazione di nuovi modelli di business per rilanciare l'economia. Tantissimi i temi su cui si sono concentrati tutti gli ospiti della giornata, a partire dai nuovi scenari aperti della digitalizzazione al rilancio del Sud e poi il grande tema delle infrastrutture. E di Mezzogiorno e infrastrutture ha parlato il ministro Graziano Del Rio, presente a questi stati generali dell'innovazione di Bari, stati generali che vedono anche la partecipazione di due altri rappresentanti del governo nazionale, il viceministro allo sviluppo economico Calenda, il ministro alle riforme alla pubblica amministrazione Madia. Il ministro Del Rio ha ribadito l'impegno del governo sul fronte delle infrastrutture in tutta Italia, con una particolare attenzione sul Sud, a partire dalla rete dell'alta velocità Napoli-Bari, i cui cantieri partiranno a brevissimo. Per chiudere ascoltiamo proprio un passaggio dell'intervista al ministro Del Rio. La connessione porta a sviluppo, è ovvio che se si hanno più collegamenti aerei, come per esempio abbiamo avuto nel 2015, più voli a disposizione, si sviluppa di più l'economia, il turismo, è evidente che se i porti sono collegati con buone vie autostradali e con i treni all'interno dei porti, è evidente che le merci vanno più rapidamente ai mercati di destinazione, quindi c'è un impulso decisivo da parte delle infrastrutture per lo sviluppo. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Nella seconda parte della trasmissione sentiremo un'intervista che abbiamo realizzato con l'avvocato, il legale della famiglia di Salvatore Failla, una delle due persone che sarebbe morta, e usiamo il condizionale perché non c'è stata ancora la conferma ufficiale, sarebbe morta ieri in Libia. Poi parleremo proprio del nostro intervento in Libia e dei dubbi costituzionali che sta già suscitando, poi anche il calcio con Roma-Fiorentina e l'assemblea della Banca Popolare di Vicenza che arriva finalmente domani. Traffico. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In Libia sono stati liberati altri due ostaggi italiani, gli altri due ostaggi italiani, siamo devastati, dicono abbiamo bisogno di tornare, si indaga intanto sulla morte degli altri due. Intanto prende corpo l'ipotesi di un intervento nel paese, cautela dal governo che non vuole fughe in avanti, ma è già polemica sull'impiego delle forze speciali. Lo scandalo Petrobras, fermato l'ex presidente brasiliano Lula dopo una perquisizione nella sua casa. Ieri un senatore aveva fatto il suo nome e quello dell'attuale presidente Dilma Rousseff. Mutui e pignoramenti verso l'estensione del limite a 18 mesi. Per chi perde il lavoro già una serie di garanzie, dalla moratoria al fondo di solidarietà. Il calcio, questa sera una sfida in chiave Champions, si affrontano la Roma e la Fiorentina. Ed eccoci di nuovo dunque, e ancora a parlare della notizia del giorno che è senza dubbio la liberazione degli altri due ostaggi italiani dopo la notizia arrivata ieri della morte appunto di altri due. Qualcuno parla, qualcuno ci scrive via SMS a proposito del presunto riscatto che sarebbe stato offerto o addirittura parzialmente pagato dal governo. Questa è una voce che è circolata, così come circola sempre quando ci sono vicende di ostaggi, voci al momento non confermabili, quelle ufficiali, nella fattispecie il presidente del Copasir Giacomo Stucchi, il Copasir, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Sicurezza, ha detto che si sente di escludere che appunto ci sia stato un pagamento di riscatto. Probabilmente le indagini verteranno a un certo punto anche su questo. Noi abbiamo sentito questa mattina l'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, che è il legale della famiglia di Salvatore Failla, una delle due persone che appunto sarebbe rimasta uccisa ieri. Ancora non è chiaro con quale dinamica e in quale tipo di evento, e usiamo il condizionale proprio perché non è arrivata ancora nemmeno la conferma ufficiale. Sentiamo. Guardi, la conferma ufficiale personalmente non l'ho avuta, in quanto da ieri sera non sono riuscito a contattare la signora Failla. Suppongo che gli eventi assolutamente recenti che abbiamo conosciuto, quindi la liberazione degli altri due nostri connazionali, in qualche modo abbiano di fatto chiuso anche quel minimo perlume di speranza che ancora poteva essere legittimamente alimentato. Aspettiamo che le salme rientrino in Italia e a quel punto ci saranno i riconoscimenti del caso. Certamente, immagino lei stia seguendo la famiglia anche per le indagini che sta portando avanti la Procura di Roma, o no? Sì, ho parlato proprio questa mattina col pubblico ministero Colaiocco e di ora in ora, questo ci è stato detto, il panorama cambia. Senta, immagino che ieri quando ha sentito la signora il dolore fosse grande, no? Era in uno stato di angoscia e di disperazione, del resto comprensibile, perché dobbiamo anche pensare che un mese fa circa si era aperta una finestra di speranza che lasciava prevedere, se non in tempi rapidissimi, ma comunque che le trattative potessero essere giunte a un buon punto. E quindi era una speranza che quotidianamente si alimentava. È stato un dramma assolutamente imprevisto e imprevedibile. Quindi, come dire, l'ultimo momento nel quale avete avuto notizie, o la signora ha avuto notizie, è stato un mese fa. Ci sono stati anche contatti, no, dimostrazioni che erano vivi? Dimostrazioni assolutamente no. Contatti con l'unità di crisi della Farnesina, a me risulta che la signora li avesse molto frequentemente, sistematicamente vorrei dire. E certo, quindi appunto un mese fa sembrava che le cose stessero per avere una svolta, per subire una svolta. Sembrava di sì, ovviamente io non avevo contatti con la Farnesina, io li avevo con il pubblico ministero e effettivamente le trattative sembrava che stessero andando avanti positivamente. Su questo torneremo, sulla vicenda dei rapiti, come vi dicevo ci collegheremo con Domenico Quirico, inviato della Stampa, che si trova proprio nella zona dove ci sono state queste due morti e queste due liberazioni. Intanto però c'è un altro tema che si impone, che è il tema dell'intervento in Libia. Proprio il presidente del COPASIR, che citavamo poco fa, pochi istanti fa, ha detto serve con celerità una missione militare di robusto peace enforcement in Libia, se aspettiamo i rischi potrebbero essere anche peggiori. Il punto è che qualcosa nei giorni scorsi si è mosso, lo ha scritto Gerardo Pelosi sul Sole 24 Ore, un vero e proprio scoop, così possiamo definirlo, di un decreto varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede la possibilità di invio di uomini sul terreno. Sono dei militari che però avranno una sorta di ruolo di intelligence, o meglio, saranno coperti dalle regole di ingaggio dell'intelligence, ossia dei servizi. E c'è già qualcuno che dice attenzione, questo è in sostanza è un entrare in guerra. Saluto Natalino Ronziti, che è docente di diritto internazionale alla Luis Guido Carli di Roma e ha curato il volume L'articolo 11 della Costituzione, baluardo della vocazione internazionale dell'Italia, è quello che riguarda la pace, insomma, la pace e la guerra, l'articolo 11 della Costituzione. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, vorrei sapere come giudica questo decreto varato appunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi. Tra l'altro sono circolate indiscrezioni nelle ultime ore, filtrate come sempre da Palazzo Chigi, i famosi retroscena nei quali Renzi si dice inviperito perché proprio il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera hanno avuto notizie di tutto questo, inviperito non con i giornali ma per la fuga di notizie. Come lo valuta lei? Beh, nessuno lo conosce, se lo conoscete voi giornalisti, quello che si ha dalle notizie che sono apparse nella stampa, sulla stampa, devo dire che già però nel decreto missioni e nella legge missioni che è stata approvata in dicembre, c'è una disposizione che riguarda la possibilità, per quanto riguarda i militari, di avere quelle che vengono chiamate le garanzie funzionali dei servizi di intelligence. Quindi questi militari possono essere impiegati in questi servizi di intelligence. Il punto però è un altro, a mio avviso, e se queste missioni limitate, perché ovviamente mandare 50 uomini o 100 uomini non è una missione di peace enforcing, se per queste missioni limitate ci vuole un consenso parlamentare. Infatti il punto sul quale tra l'altro la volevo, professore, è esattamente questo, perché insomma appunto il decreto missioni varato in dicembre allarga la possibilità di azione del Presidente del Consiglio e della Presidenza del Consiglio in maniera notevole da questo punto di vista, no? Per quanto riguarda questo consenso parlamentare ormai è prassi, tanto che per quanto riguarda questo punto esiste un disegno di legge che è ancora fermo al Senato, dove si fa riferimento a missioni che non sono guerra, sono missioni che sono decretate dalle Nazioni Unite, quindi sotto copertura delle Nazioni Unite, o comunque autorizzate, o comunque che si svolgono nel quadro della legalità internazionale, per cui il Presidente del Consiglio e gli organi preposti possono intraprendere delle azioni in proposito, ma debbono informare le Camere. Debbono informare le Camere, le quali con apposito atto di indirizzo e detto espressamente negano o danno l'autorizzazione. Questo mi sembra sia un... La sua impressione da quel che abbiamo letto di questo decreto, del quale si sa poco, lo chiariamo, perché è stato secretato subito dopo essere stato approvato, ed è per questo che parliamo di fughe di notizie arrivate sui giornali, la sua opinione molto seccamente, professore, è che ci vuole il voto parlamentare su una cosa di questo genere oppure no? Per il momento il numero di uomini, lo abbiamo detto, è piuttosto limitato, nel senso che sono una quarantina di uomini dei servizi puramente e 50 del colmo Moschin, che dovrebbero andare là appunto con queste garanzie che dicevamo, insomma quelle riservate, garanzie funzionali riservate all'intelligence. Secondo lei ci vuole un voto parlamentare su una cosa di questo genere o come dire siamo... Secondo prassi comunque il Parlamento deve essere informato, perché se si va a vedere la prassi precedente non c'è scritto niente alla Costituzione a questo riguardo. La Costituzione riguarda, per quanto riguarda l'autorizzazione parlamentare, solo la guerra, questa non è guerra in senso tecnico, però secondo la prassi precedente o il Parlamento autorizzava preventivamente o comunque veniva informato, quindi comunque il Parlamento deve essere informato e a quel punto ovviamente la questione può essere dibattuta, nel senso che il Parlamento può autorizzare o può dire no, questo intervento deve essere terminato. La ringrazio, grazie al professore Natalino Ronzitti per essere stato con noi. Chiedo scusa, abbiamo avuto qualche piccolo problema di linea, qualche ascoltatore ce l'ha scritto, in realtà in cuffia lo sentiamo abbastanza bene, evidentemente in uscita in radio non era abbastanza alto. Prima di andare a sentire cosa succede sui mercati, sentiamo che partita ci attende stasera, va? Spareggio Champions con vista sul secondo posto. Pesa parecchio questo Roma-Fiorentina nell'economia del campionato. Chi vince infatti consoliderà le ambizioni per la terza piazza e potrebbe poi anche approfittare di eventuali passi falsi di Juventus e Napoli. Meglio però fare un passo alla volta, predicano Spalletti e Paolo Sousa. Il romanista punterà forte sull'ex viola Salah, già in gol nella vittoriosa trasferta al Franchi dell'andata, mentre il viola dovrà rinunciare all'ex laziale Zarate squalificato. Ma sarà anche sfida tra i bomber dell'est, il giallorosso Dzeko e il fiorentino Kalinic, sotto gli occhi del presidente romanista Pallotta, che per una sera spera di non dover pensare al caso Totti e al difficile iter del progetto per il nuovo stadio. La viola è in vena di sgambetto, ma la predisposizione d'animo del boss americano è delle migliori, spiega Spalletti. Mi è sembrato contento, mi è sembrato carico di entusiasmo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi, come vi dicevo, nella prossima parte della trasmissione parleremo con Domenico Quirico, giornalista della Stampa, che si trova là a Sabrata, dove appunto sono stati liberati i due italiani. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: in Libia sono stati liberati gli altri due ostaggi italiani, siamo devastati, dicono abbiamo bisogno di tornare, non è ancora chiaro come siano avvenuti i fatti. E prende corpo intanto l'ipotesi di un intervento nel paese. Di pochi istanti fa la dichiarazione del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Roberti, dice in caso di guerra il rischio di attentati terroristici si alzerebbe. Lo scandalo Petrobras: fermato l'ex presidente brasiliano Lula dopo una perquisizione nella sua casa. Ieri un senatore aveva fatto il suo nome e quello dell'attuale presidente, Dilma Rousseff. Mutui e pignoramenti: verso l'estensione del limite a 18 mesi per chi perde il lavoro, già una serie di garanzie, dalla moratoria al fondo di solidarietà. La borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, e siamo in grado di collegarci con Domenico Quirico, inviato della stampa in Libia. Domenico, eccoci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, la notizia l'abbiamo data in apertura e ormai la sapete, sono stati liberati Filippo Calcagno e Gino Pollicardo, tecnici della ditta Bonatti, non sono più nelle mani dei loro rapitori, è stato anche diffuso un video. Sapevamo tra l'altro, Domenico, che sarebbero dovuti essere consegnati nelle mani delle autorità italiane, è già avvenuto questo oppure no? Ma questo non lo so, perché io sabato... sono stato ieri e poi sono orientato a tutto, sì. Sabato è un posto pericoloso, sì. Molto pericoloso, e quindi niente, ho avuto la notizia che erano stati liberati, sì. E dico la verità, come ex ostaggio questo mi bastava, sì, poi come certo. Sia avvenuto, come non sia avvenuto, questo forse faccio un esercizio di antigiornalismo, ma mi interessava, come dire, al momento dici molto relativamente. Non ci ho perso molto tempo, non lo so, probabilmente sì, immagino che saranno affrettati ad andarli a prendere, anche perché, cioè, ripeto, è un posto dove può capitargli di tutto anche 10 secondi dopo che sono stati liberati. Una zona molto, molto pericolosa, appunto. Tra l'altro, Domenico, tu sei stato il primo a dare la notizia questa mattina, insomma. Senti una cosa, mi sembra, anche se, come dire, come mi dicevi, cioè un certo disinteresse, come dire, per come sono andate le cose, mi sembra che le notizie che arrivano da là, tra l'altro, siano comunque estremamente confuse, perché qualcuno addirittura racconta che si sarebbero liberati da soli, altri ancora che tutto sarebbe... Non mi risulta, anzi mi risulta sostanzialmente il contrario, però con buona possibilità di essere smentito. Forse per capire bisogna pensare che cos'è il luogo in cui si è verificato tutto questo. Volentieri. Allora, posto che c'è una guerra tremenda, dove ci sono un sacco di milizie di varia natura e di varia provenienza, islamisti, non islamisti, affiliati a un governo, tra l'altro a un sedicente governo di Tripoli, perché non è riconosciuto da nessuno, e anche da una parte dei libici. Allora, sentivo parlare di polizia, la polizia, forse c'è anche la polizia, ma cioè non immaginatevi un posto normale in cui succedono delle cose, cioè non è che c'è questo a Sassari negli anni 70, che questi si trovano nell'ovile, arrivano i carabinieri e la procura della Repubblica. È un posto dove c'è una battaglia terrificante tra formazioni che non hanno una identità politica, spesso hanno semplicemente un'identità, come dire, delinquenziale o radicale islamica. Allora, in tutto questo è chiaro che non c'è una versione, è difficile accertare cos'è effettivamente accaduto, per cui immagino che per un po' ci sarà un po' di confusione. Ripeto, però la cosa che credo sia fondamentale è che sono vivi e in buone condizioni di salute, per quanto può essere in buone condizioni di salute una persona che è stata 7 mesi, come dire, sequestrato. Sì, no? Certo. Domenico, tra l'altro, come ci dicevi, no? Già ci iniziavi parzialmente a descriverci questa zona, una zona nella quale si affronta gruppi di qualsiasi tipo, da quelli delinquenziali a quelli più legati, come dire, all'estremismo islamico e magari anche collegati all'ISIS, oltre che forze, immagino qualche forza governativa, se di forza governativa si può parlare in quella situazione. Ce ne sono tre di governi qua, cioè prima bisogna capirci su quale c'è un governo riconosciuto dalla comunità internazionale, che è quello di Tobruk, che qui però, come dire, sta sulla montagna rispetto a Sabrata. Stanno delle forze, ma non sono a Sabrata. Combattono contro dalla montagna. Poi c'è il governo di Tripoli che si è autoproclamato tale, c'è un governo di unità nazionale, ma unità è una parola mi sembra un po' complessa, visto che non riesce neanche a rientrare nel paese. Allora sì, questa è la situazione, ma non solo di Sabrata, di tutta la Libia, non è solo quello è semplicemente un microcosmo di una realtà terribile, ma molto più vasta, che è costituita da tutto il paese, no? Senti Domenico, per chiudere, scusami, per tornare sulla cronaca, così ti liberiamo, ovviamente ti lasciamo al tuo lavoro, e per tornare sulla cronaca, ci dicevi che a te risulta una cosa diversa, poi ovviamente ripeto, sì, in questo momento è un po' complesso, a te cosa risulta al momento? Mi risulta che sono stati liberati in una operazione di milizie legate più o meno al governo di Tripoli, e che sono le stesse milizie che l'altro ieri hanno partecipato a un'altra operazione che purtroppo è finita invece in modo molto più tragico con gli altri due italiani. Poi ripeto, sì, chiaro, non ero lì, ecco. Quindi, benissimo, ti ringrazio, grazie a Domenico Quirico, inviato della Stampa, per essere stato con noi, per gli aggiornamenti e anche per i chiarimenti. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi c'è Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.